Radio 24. Libera la voglia di fare. Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Buongiorno, ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. Nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube. Non ci sarà Daniele Bellasio questo fine settimana, non ci sarà oggi, per lo sciopero a oltranza indetto dai colleghi del Sole 24 Ore, la stessa ragione per cui noi di Radio 24 stiamo andando in onda senza le firme dei giornalisti che hanno proclamato lo stato di agitazione, preoccupati per gli sviluppi dell'inchiesta avviata dalla Procura di Milano sul gruppo 24 Ore. Allora, noi saremo comunque insieme dunque fino alle 18 in diretta con Radio 24. Il numero per i vostri SMS e WhatsApp è 349-238-6666. C'è comunque il mio account di Twitter, il mio account di Instagram, li conoscete, chiocciola Marta Cagnola, per tenervi in contatto tutto pomeriggio con il sabato del villaggio. Ma quali saranno i temi della prima ora del sabato del villaggio? Intanto, i film in sala il weekend, lo sappiamo, tutti i fine settimana, ogni sabato ne parliamo con Franco D'Assisti. E poi con il gastronauta parleremo di tendenza verde, scopriremo perché. Ci chiediamo, ma è vero che i televisori ci spiano? Le polemiche sulla tecnologia e la verità, cosa c'è di vero nelle notizie che si sono diffuse questa settimana? Nell'appuntamento con Enrico Pagliarini. Ma prima, sono il mio gruppo del momento, sono pazza di loro, sono qui con noi, insomma, musica. Spero che ti possa tagliare con un foglio mentre firmi per la casa nuova, e che la penna si rompa e ti sporchi il vestito che ti toglie un altro ogni sera. Spero che sia l'uomo perfetto, ma non noti se ti tagli i capelli e confonda il tuo compleanno con quello di sua madre. Vorrei che almeno un giorno a settimana l'autobus arrivi tardi. Vorrei che nella pioggia un'auto nera schizzi la tua gonna corta, che passavo più tempo con le mani perse là sotto piuttosto che attaccata al volante di un'auto nera, la mia auto nera. Buona, buona sfortuna, buona, buona sfortuna, come te non c'è nessuna, e per fortuna, amore, buon viaggio e buona sfortuna. Allora, ogni settimana io vi dico, questo è il disco del momento, e dovete credermi perché è sempre vero, ma questa settimana è ancora più vero degli altri. Amore, lavoro e altri miti da sfatare. Sono molto contenta, non so cosa succederà perché lo studio è pieno di gente. Sono molto contenta di avere qui lo stato sociale. Ciao ragazzi. Ciao Marta, ciao. Evviva. Delirio. Allora, vi presentate anche perché avete dei nomi straordinari. Noi siamo lo stato sociale, siamo Albi, Francesco, Carota, Lodo e Bebo. Quindi ci siamo capiti. Allora, in radio voi state molto bene perché con la radio avete sempre avuto più o meno a che fare. Perché non ci si vede in faccia e siamo piuttosto brutti. Non è vero. In radio siamo più belli. In radio siamo tutti bellissimi. Io faccio la ballerina alla radio, vedete voi. Beh, vedete che hai del talento. Sì, sì, sì. Io quando parte la musica faccio certi stacchetti che levati. Allora, amore, lavoro e altri miti da sfatare. Un titolo che già fa capire cosa pensate della situazione di oggi. Ci sono dei punti di riferimento che sono sempre stati il mito delle generazioni che ci hanno preceduto e delle canzoni che ci hanno preceduto, e voi invece dite no, miti da sfatare. Sì, diciamo che Non siamo stati noi i responsabili del crollo di questi miti, però noi possiamo essere fra quelli che contribuiscono ad alzare il velo e scoprire il disastro e quindi cominciare una ricostruzione partendo dall'ironia e dall'autoironia legata alla perdita. Madonna, che cosa seria che sto dicendo, scusate. Infatti ti stavano guardando. No, mi sono imbarazzato smarriti. Da solo, forse non devo. Sì, e quindi sì, l'amore e il lavoro, ad esempio, in questo momento vivono una fase molto critica perché il lavoro sembra una chimera. E tutti hanno la loro idea su cosa si dovrebbe fare per avere lavoro. Fondamentalmente ci sono le correnti di quelli che dicono che bisognerebbe lottare a tutti i costi per i propri diritti, di quelli che dicono che bisognerebbe accontentarsi, di quelli che dicono che bisogna garantire chi aveva il lavoro prima, che bisogna invece guardare nuove generazioni, di quelli che parlano sempre della nostra generazione e sono sempre di una generazione molto lontana pensando di averla capita. E l'amore si riflette in questa cosa, perché la precarietà che hai da un lato della tua vita porta ad un bisogno eccessivo e spasmodico di solidità nei rapporti amorosi, anche fuori dal tempo della relazione. E quindi sì, sono due cose che non stanno funzionando alla grande, almeno nelle nostre vite. Sì, perché l'amore, allora si sente, andando in ordine, amore, lavoro e altri miti da sfatare. Di amore c'è grande bisogno, ma non è che sia sempre lieto fine in queste canzoni, anzi. No, perché... Perché come diceva uno più famoso di noi, quando sono felice vado a farmi una passeggiata. E quando sono triste scrivo le canzoni. Esatto. È chiaro che, come poi giustamente diceva Lodo, l'avere una percezione estremamente precaria della propria vita influisce negativamente anche sui rapporti umani. Amore è inteso in realtà in maniera piuttosto ampia, non solo diretto alle relazioni amorose di coppia, ecco. È proprio una questione dello stare insieme che diventa molto difficile nel momento in cui tutto quello che ti sta attorno, magari in maniera un po' più formale, tipo il lavoro o il welfare e altre cose che si appoggiano al cappello sulle vite, sono, come dire, particolarmente poca qualità. Non volevo usare turpiloquio. Come dite sempre, tutti poveri, no? In 60 milioni di partiti, già questo titolo secondo me è geniale. Ovviamente fotografia di quello che è l'Italia, come la vedete voi dal vostro punto di vista, ma soprattutto anche di quello che forse ci sarebbe bisogno. Intanto questo paese ha bisogno di silenzio. Non è male questa presa di posizione. E io di certo non lo sto aiutando. Perché appunto silenzio, ma intanto canto. Perché questo paese ha bisogno di silenzio? Perché ad un certo punto è nata in noi la percezione che questo infinito chiacchiericcio in cui tutto è uguale a tutto e il contrario di tutto ed è una grande Macedonia che mangia e rimette informazioni costantemente e autonarrazione costantemente, per cui il mondo fuori, i giornali, internet, la tua rappresentazione su internet, la guerra, il Kurdistan, la dieta del kiwi, il veganesimo, la crisi, il mito dei 30 euro ai migranti, come, la post-verità, no? Sì, gli elenchi, no? Tipo le 15 cose, sì, da non dire al primo appuntamento che stai, no? Facendo in questo momento. Esatto, quello che sto facendo è tutto un chiacchiericcio in cui nessuno sta più dicendo niente, ma tutti hanno una grande ansia di rappresentare se stessi e di essere dentro questo calderone. Ed effettivamente, anche se lo dici, tu fai parte di questo calderone. E anche se lo metti in una canzone o dici in un disco, e comunque non stai facendo l'unica cosa che potrebbe servire, cioè fermarsi un attimo e smetterla di voler dire a tutti i costi sempre la propria parola per giustificare il fatto che si esiste. Imparare anche ad ascoltare il silenzio del... Come diceva Qualo, abbiamo due orecchie e una bocca, per un motivo, insomma. Cioè, per ascoltare due volte e parlare una volta sola. Una volta sola. La metà, sì. Mi viene in mente la TV anche perché a un certo punto voi, traccia 8, nasci rockstar, muori giudice a un talent show. Ovviamente tutti hanno pensato che stesse parlando di Emanuele Agnelli. Ho visto che ve l'hanno chiesto tutti perché insomma il titolo sembrava cucito addosso per lui. Avete detto che non era no, non perché era è stata scritta prima della sua esperienza, ma in generale non è neanche riferito a un Morgan o a un J-Ax, per dire, certo. No? Persone che hanno fatto la stessa cosa. È una frase ad effetto messa insieme ad altre frasi ad effetto che va a compiere il titolo di un pezzo che parla anche di noi in realtà, e parla dello show business in un qualche modo, o del sistema in cui bene o male ci siamo dentro anche noi. Quindi è una critica, è un'accusa al perdersi dentro a un tipo di sistema, cosa che in un qualche modo succede anche a noi, e cerchiamo di, con appunto un po' di autocritica e autoironia, di esorcizzarla. Anche perché non noi siete non mai stati me. Troppo, però. Noi non ci perdiamo troppo alla fine, fino adesso mi sembriamo abbastanza, che ci compensiamo sempre abbastanza. Poi non lo so, magari sì, adesso sbaglio. Facciamo una riunione tra di noi, poi fra un po' ti diciamo. No, anche perché siamo. Ho letto questa cosa bellissima del siamo un collettivo, quindi intanto non è che siete una band in cui c'è quello che canta, quello che c'è, tutta una costruzione più appunto da collettivo. È un modo molto complicato e naturalmente facile per noi costruire le cose come pratica collettiva. Nel senso che sia dalla parola e dalla musica c'è il vaglio di tutti e cinque, la correzione, l'approvazione, lavorare insieme e quindi anche scannarsi, ma anche fare la pace e fare delle cose belle alla fine. Mai stati meglio, dite in una traccia, perché poi alla fine sì, c'è tutto sto casino, però siamo coscienti del fatto che tutto sommato non si sta poi così male, però un po' di nostalgia c'è, e soprattutto qualcuno che andava con la nonna al mercato, è la nostalgia dell'infanzia, delle cose... Ah, io sono un grande nostalgico del Novecento. Con tutti i suoi difetti. Perché volevate sapere se avevo sentito la canzone della nonna. Io non mi ricordavo che ci fosse come ghost track. Me lo dici tu, è bellissimo. Ma l'ho sentito davvero. Non ce l'avevano detto che l'avevano messa dentro, sì. La canzone noi della nonna non l'abbiamo ascoltato, forse solo nel tuo disco e come magari è per me. E come funziona? Dopo quanto parte? Cioè... Dopo un bel po', perché io l'ho raccontato ai ragazzi prima di entrare. Io ero in macchina imbottigliata arrivando in radio, è traccia 11 e poi vedo che silenzio, traccia 12, silenzio, traccia... Io sono abituata a aspettare perché mi aspetto sempre, traccia 16 è arrivata. Ma dai! Ma sai, guarda che questo è nuovo anche, cioè stupiamo per davvero, perché noi il disco lo conosciamo in digitale. Certo! Quindi avevamo anche certo, quelle no, che no, sono io... finite fuori dal disco. Ah, ve lo faccio sentire, e poi... ce l'ho quello sì, fisico sì, sì. Qua. E non la... cioè, forse... perché siamo un e po' vincolate da altre forme, non l'abbiamo proprio ascoltato. I 30-40 anni sono nostalgici, un po' di... ce l'abbiamo questa infatti cosa qua. Abbiamo premiato chi acquista il CD fisico con una ghost track, scoprendolo adesso tra l'altro, però l'abbiamo premiati in un qualche modo, perché in digitale appunto non c'è questa ghost track. Ragazzi, dal vivo, intanto a Milano fate il forum, che vuol dire che è un bel punto di arrivo, non è... cioè, lo è sanno grosso, i milanesi, esatto, lo sanno i milanesi, ma lo sanno anche i non milanesi, è grosso e ci fanno le date importanti. Sì, è una bandierina, è decisamente una bandierina. È interessante il fatto che partiamo con un punto d'arrivo. Che rappresenta abbastanza come la siamo fatti. Presenta abbastanza il fatto che pensiamo sempre al contrario. E sì, quando abbiamo fatto il Palasport a Bologna... forse l'abbiamo sentita di più, perché il passaggio da festival, club a Palasport la prima volta che lo fai è più particolare, soprattutto perché è più difficile fare un concerto in Palasport, non tanto riempirlo quanto portarci tutte le cose dentro, perché di solito lì si gioca a basket, no? Quindi siamo abituati ad andare in posti in cui c'è un bar, c'è un palco, c'è la sicurezza, ci sono delle cose, invece entri in un posto dove non c'è nulla e ti porti tutto da casa. E il giorno dopo devono rimontare tutto, sì, sì, per sì. Far sì che giochino a basket. È una cosa incredibile, anzi questa cosa è molto, molto difficile da far percepire fuori, quanto sia faticoso, dispendioso e complesso mettere su quel tipo di concerti, soprattutto per band italiane, che non, diciamo, non sono abituate a, a questi numeri e fanno queste cose autoproducendosi, no? Quindi è un po'... è un po' lanciare un'opa, è un po'... però adesso è il momento di questo tipo di musica in Italia, cioè il momento delle band che hanno delle idee nuove, secondo me. Voi sì, come lo sì, percepite? C'è stato sicuramente un'esposizione dal punto di vista radiofonico nell'ultimo anno, insomma, con Cani, Calcutta, Cosmo, Exotago, giornalisti. Sì, quindi c'è stato un po' più di attenzione da parte dei programmatori musicali, che evidentemente qualche dinosauro è andato in pensione oppure insomma è stato all'improvviso svecchiato. In realtà poi è la scoperta dell'acqua calda, perché fondamentalmente questo tipo di musica, chiamiamo così, in realtà questo tipo di logiche produttive sono le logiche produttive che poi richiamano le persone per davvero. Quando tu fai il talent e vai a fare una data davanti a quattro persone e non fai nessun talent ma 5 anni di tour e finisci a fare il forum, forse qualcosa ti spiega un po' di più. Sono d'accordo. Questi ragazzi che escono dai talent e cancellano le date per motivi indipendenti, per molti impegni. Oppure Apicella, oppure sei Apicella che vende due biglietti al forum. L'abbiamo già sentita questa. Lo stato sociale, amore, lavoro e altri miti da sfatare. Siete fighissimi, sono contenta di aver avuto questo sabato del villaggio. E vi verrò a vedere al forum. Grande. Saremo una folla, saremo tantissimi. Grazie ragazzi. Grazie mille. Grazie. Ciao. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Il sabato del villaggio. Pazza, pazza per lo stato sociale, saranno assolutamente il mio album della primavera e secondo me anche un po' dell'estate. Adesso però, dopo aver conosciuto questi bolognesi che davvero mi rendono molto felice, è il momento di collegarci con il nostro gastronauta e lo introdurrei così. Musica, capisco già che siamo in così territorio, ambiente, atmosfera giapponese, quindi arriverà dal Giappone la tendenza che ci segnala questo fine settimana il nostro gastronauta? Glielo chiediamo subito. Ciao Davide, buongiorno. Ciao. Davide Paolini. Allora, Giappone? Giappone, ma non solo Giappone, perché poi parleremo anche di un'altra tendenza che è sempre di questo colore, verde, perché la tendenza di cui parliamo oggi è verde. La prima arriva dal Giappone, la seconda probabilmente arriva anche da altri paesi, compreso gli Stati Uniti, ma sempre verde. Stiamo parlando di matcha. Cos'è il matcha? E ormai, come dicevi giustamente tu, c'è un'atmosfera incredibile, perché questo rito del matcha è un rito della cerimonia del tè in Giappone, molto antico, chiamato Chanryu addirittura. È un rito quasi spirituale. Infatti quando si entra in questi locali, che ormai si stanno espandendo a macchia d'olio, perché non solo in Italia, non solo negli Stati Uniti, ma io recentemente ero in Germania e anche in Germania veramente ho visto una moltiplicazione di questi matcha che non si adattano forse molto allo spirito tedesco. Vabbè, tirem in nas, come si dice. Ma cos'è il matcha? Allora, il matcha è un tè verde, ma non è il solito tè verde, perché di tè verdi ce ne sono molti, non ce n'è uno solo, coltivati sia in Cina che in Giappone. Noi stiamo parlando di un tè verde le cui sostanze vengono cedute non per infusione come succede appunto per tanti altri tè anche importanti, ma addirittura per sospensione. Per sospensione, ovvero sciolti nell'acqua direttamente, l'intera foglia, quindi con tutte le sue diciamo sostanze benefiche. Mi rifaccio indietro, non solo viene preparato per sospensione, quindi in maniera completamente diversa dagli altri tè verdi o dagli altri tè, ma addirittura è coltivato in maniera completamente diversa, perché le piante vengono tenute ombreggiate. Mm-hmm. Sono dei teloni che fanno ombra su queste piante perché ne devono preservare le qualità organolettiche, e poi vengono addirittura raccolte a mano, sono cotte a vapore, vengono asciugate e macinate, anche qui con delle ruote molto particolari che sono quelle in granito, perché deve venire fuori una polvere quasi impercettibile, e poi appunto vengono sciolte nell'acqua. Io ecco qui dovrei entrare anche in un tema molto salutistico, però quando si parla dei contenuti io sono molto attento, nel senso che si dice che siano ricchi questi tè di antiossidanti, addirittura c'è chi dice addirittura che fanno dimagrire. Ecco, io questo è un aspetto che vorrei lasciare a parte, perché un giorno si dice una cosa, poi arrivano delle controindicazioni mediche, quindi io dico semplicemente che è vero, contengono degli antiossidanti, poi che siano dimagrenti o meno, questo io lo lascio magari ai dietologi che se ne occupino loro, ma questi locali matcha non solo hanno il tè, ma hanno tutta una serie di bevande che si basano sul tè verde, addirittura c'è un qualcosa che chiamano anche cappuccino, il matcha al latte. Poi ci sono A me piace tantissimo. Posso dire che è un sapore molto forte che può piacere molto o non piacere. Beh sì, questo hai perfettamente ragione, hai ragione, perché è un tè diverso dagli altri, quindi magari uno si aspetta questi tè delicati che di solito siamo abituati a bere nelle bustine, perché questa è la realtà. O un tè molto liquido, invece questo è un po' più, come possiamo dire, schiumoso, spumoso. Ma anche perché sai, quando tu lo prepari in sospensione, praticamente si prende tutto dalla foglia. Mm-mm. E quindi non si prende solamente una parte, oppure una parte che viene lavorata e poi viene servita in bustine, quindi ci sono tanti passaggi, insomma è una cosa completamente diversa. Ma dicevo che non solo cappuccino, ma ci sono tantissimi dolci che sono basati sul matcha. Ad esempio io ho sentito una panna cotta con il matcha, e l'ho trovata veramente con un sapore completamente diverso da quello che siamo soliti ovviamente a mangiare la panna cotta, è evidente questo, e come dicevi tu c'è un sapore molto più forte che nell'altra, e quindi diciamo che è una cosa completamente diversa. Ma quello che più mi ha colpito del matcha è il rito, la lentezza del rito, che forse è ancora più lenta di queste sale da tè a cui siamo abituati. È lento e c'è questo silenzio. E mi è capitato anche di essere in un locale dove i camerieri parlavano veramente a bassa voce, quasi per non disturbare che si stava godendo il matcha vicino. Quindi è vero quando si dice che può avere qualcosa di spirituale, qualcosa, come posso dire, di molto privato, e credo che sia proprio così. Ho detto verde all'inizio. Eh sì, verde, hai detto più di una tendenza verde, noi aspettiamo. Ecco, esiste. Quindi la prossima tendenza che annuncio, e sono convinto che si svilupperà molto, è il caffè verde. Cos'è il caffè verde? E faccio subito una premessa. Negli Stati Uniti è un boom senza precedenti, forse sarà un boom che supererà anche il caffè, quello tradizionale che intendiamo noi, perché è diventata quasi una mania di molti, una passione di molti. Ci sono dei veri e propri bar solo esclusivamente con il caffè verde. Il caffè verde perché? È proprio verde il colore, cioè il caffè normale che noi beviamo subisce il processo di torrefazione. Certo. Quindi da verde i chicchi di caffè, che sono verdi diciamo in natura, diventano di un colore marrone perché subiscono questo processo. Lo subiscono a una temperatura dai 200 ai 250 gradi e quindi sicuramente cambiano e probabilmente perdono anche delle qualità chimico-fisiche con appunto questo processo di torrefazione, mentre il tè verde, il caffè verde le mantiene completamente. Quindi la tostatura non avviene, non c'è la tostatura, di conseguenza cambia anche completamente il sapore e quindi sono praticamente dei chicchi che verdi che vengono sottoposti a una specie di macinatura e poi si può preparare questo caffè verde crudo. Si può mantenere in tantissime maniere, diventa una bevanda completamente diversa, non solo per l'aspetto ma soprattutto per il sapore e per l'aroma, e anche dal punto di vista delle caratteristiche nutrizionali è tutta un'altra cosa. Quindi diciamo che è un caffè molto diverso. Ora, che sia più o meno salutistico, anche questo lo lascio ai medici, lo lascio ai salutisti, semplicemente però la caffeina nel caffè verde è presente in minore quantità. Ecco, questo è il fatto importante, quindi se ne può bere molto di più, ma contiene però un acido molto particolare che si chiama clorocenico, che è un antiossidante anche questo, quindi sempre più si va verso prodotti salutistici e antiossidanti. Ecco, io credo che però non so quanto successo farà in Italia il caffè verde, perché nasciamo con il caffè nero e di conseguenza siamo abituati a questo. Sì, siamo sapore. Anche molto tradizionalisti sul caffè. E poi siamo molto veloci nel berlo. Se c'hai ancora spazio. Ce l'abbiamo, aspettiamo la chicca, ce l'abbiamo. Allora, la chicca questa volta è una pizzeria. È una pizzeria molto particolare nelle vicinanze di Milano, a Erbusco, dove c'è questo famoso ristorante, l'Alberetta, è anche un albergo, dove un tempo c'era Gualtiero Marchesi, ora c'è uno chef molto giovane, molto bravo, che diciamo nel tempo sta avendo anche lui grandissimo successo. Però a fianco di questo bellissimo posto, che è anche un parco che è del gruppo Moretti, c'è un chiosco. Era un chiosco che non era mai stato utilizzato. Ebbene, Carmen e il marito Martino Moretti, Carmen Moretti e il marito Martino De Rosa, hanno avuto questa idea di fare in questo chiosco una pizzeria, però una pizzeria che io dico scherzando griffata. Perché? Perché è arrivato da Caiazzo, uno dei più famosi pizzaioli italiani, che si chiama Franco Pepe, un mixologist, lo chiamo, perché sa amalgamare i prodotti della pizza come non pochi, non solo, ma anche un dono della leggerezza. Fa una pizza fritta, che è una tendenza di cui ho parlato tempo fa, fa una pizza fritta da urlo, ripiena, oppure si può mangiare anche con tante cose dentro, quindi ma veramente straordinaria, e poi usa addirittura per ogni pizza un pomodoro diverso. Quindi ha una conoscenza della materia prima, come poche volte ho visto, e fa delle pizze, ad esempio la margherita sbagliata. Com'è? Usa. Perché è sbagliata? Perché non è quella tradizionale, lui ha rovesciato un po'. Un po' come il Negroni sbagliato. Esatto, esattamente. Lui usa il riccio, cioè il pomodoro riccio a crudo, con la mozzarella di bufala, il basilico, l'olio extravergine, e di una varietà particolare, però nella forma uno la vede, diciamo nella forma esterna, vede che uno non può dire è una margherita, poi la mangia, però sente gli stessi sapori della margherita. Però c'è un'ultima annotazione, una carta dei vini strepitosa. Oh. Allora, per la prima volta ho visto una carta dei vini che a me mi piace. Mi piace perché? Per citare il titolo di una tua vecchia trasmissione. Sì, ci sono le bollicine. Ci sono le bollicine e c'è tanto champagne. E allora ma anche bollicine tricolori, Made in Italy. Però io quando vedo l'accostamento della pizza con lo champagne, io vado in un brodo di giuggiole, come si dice. L'ho mangiato il brodo di giuggiole, per quello che lo uso. Ah. È dolcissimo, è dolcissimo. Quindi vado in un brodo di giuggiole. Quindi io lo ripeto, questa pizzeria si chiama La Filiale, ed è presso l'Alberetta ad Erbusco. Straordinario. È un viaggio che vale la pena anche da Milano o da altre parti. Pizza e bollicine, mi hai conquistato. Davide, bene. Ci sentiamo il prossimo sabato. Grazie per queste chicche. Grazie. Al prossimo sabato. Ciao Davide. A presto. Il sabato del villaggio. E rieccoci insieme con il sabato del villaggio. No, sto sorridendo perché al 349-238-6666 via WhatsApp ci arriva questo messaggio. E adesso in collegamento dall'area 51 il nostro inviato Enrico Pagliarini. Perché come sempre Enrico è collegato non so da dove, ma lo introduciamo così. Allora, I'm a Spy, cantavano i miei amati, adorati, venerati Doors. Io sono una adepta dei Doors, li adoro. I'm a Spy, anche perché chissà da dov'è collegato, ci spia da qualche parte. Ciao Enrico! Bella questa in collegamento dall'area 51, sì, il nostro inviato Enrico Pagliarini. Mi permetto però di correggere. Allora, secondo me non va bene, perché l'area 51 sappiamo dov'è. È nel Nevada, nel deserto del Nevada. Quindi io metterei, non so, una roba tipo dall'area 24, che così non si sa proprio dove sia. Perfetto. Come sempre un luogo segreto. Allora io sì, ho scelto quello Spy. Che non si sa dell'area 51 è quello che c'è dentro. Però si sa dov'è, una base aerea, no? Beh, molto più di una base aerea, una roba grande come la regione Lombardia, insomma. Dove in teoria ci sono nascosti gli extraterrestri. Ah, beh, certo, ovviamente. È la leggenda, che poi, secondo me, è una balla galattica, però ovviamente. Vabbè. Enrico, perché ho scelto I'm a Spy? Perché questa settimana ci sentiamo tutti molto spiati, ci hanno detto delle cose che ci hanno fatto preoccupare tantissimo. Sì, in realtà poi bisogna ridimensionare un po' tutto. Allora, la cosa che forse ha fatto allarmare molti, comunque di cui si è parlato un po', è questa, direi, leggenda dei televisori che ci possono spiare. Perché? Perché Wikileaks ha pubblicato una serie di documenti che, tra questi, documenti della CIA, documenti segreti, che svelano le tecniche di spionaggio della CIA. La vera notizia non è tanto che la CIA spia, questa non è una grande notizia, ma fanno questo di mestiere. La notizia è che la CIA si sia lasciata sfuggire questi documenti, a meno che ci sia sotto un qualcosa di voluto, no? Perché tutto è possibile. Però, tornando a quello che ha fatto allarmare, alcuni di questi documenti spiegano come alcuni televisori possono essere trasformati da un agente della CIA in un oggetto per spiare. Allora, qui però bisogna spiegare. Stiamo parlando di un numero limitatissimo, ma molto piccolo, di televisori. Era un modello vecchio di tre anni fa di Samsung, e la prima cosa che va detta: erano televisori con la videocamera. Erano i primi televisori che tentavano di farci usare Skype per le videochiamate, anche non solo dal computer ma anche dal televisore. Quindi in quel caso gli agenti della CIA che cosa facevano? Non via internet, perché non è stato provato che questa cosa si possa fare via internet, ma andando fisicamente nella casa di quello che gli agenti vorrebbero spiare, introducevano un malware, un virus, dentro al televisore, e quando il televisore ovviamente era connesso a internet, quel televisore diventava uno strumento per guardare in casa di quelle persone. Non è che stavano guardando in casa noi o che abbiamo tutti il rischio. Esatto. Poi, attenzione, oggi sul mercato non esistono televisori, è un po' fallita questa moda, questo tentativo di usare i televisori per Skype, quindi non ci sono televisori che hanno una videocamera, mi sono informato dai miei informatori, e quindi direi che oggi questo pericolo potenziale. Poi uno si faccia anche una domanda: ma a casa mia viene l'agente segreto travestito da tecnico del telefono e mi installa qualcosa del genere? Ecco, invece, molto più pericoloso, ma questo lo sappiamo, lo diciamo da tanto tempo, tutto quello che è connesso in maniera diversa e ha una videocamera. Cosa più semplice, molto più diffusa, i computer portatili che possono essere infettati a distanza via in modo anche abbastanza semplice, che hanno una videocamera che ci guarda costantemente perché è proprio sopra allo schermo. Cioè io sono lì con un computer portatile o con un tablet che sto facendo cose e c'è un virus che è entrato e dal buchino della telecamera qualcuno in realtà mi sta guardando. Che qui la probabilità che poi succeda che veniamo infettati, che ci sia proprio uno che vuole guardarci in casa, non è che sia proprio così, però diciamo che in questo caso che cosa possono voler vedere da noi, tra me e da te? Sì, sì. Che... però c'è chi effettivamente mette una striscetta di scotch sopra la videocamera, come dire, si sa mai, no? Sai che a me forse era successo in una foto che ritraeva il Papa. E qualcuno aveva notato che c'era questa pecetta sulla telecamera. Evidentemente, i capi di Stato, insomma, le autorità devono averla come precauzione. Esatto, mi sembra intelligente. Esatto. Ecco. Ma sì, diciamo che insomma, questo, immaginiamo quanti tentativi, anche solo per, come dire, una soddisfazione personale di un hacker, però quanti tentativi, certo, ci saranno tutti i giorni di hackeraggio del sito internet o comunque delle infrastrutture del Vaticano, non oso immaginare, molto più che l'Italia, io penso, immagino, molto più che i nostri sistemi governativi. Sì, peraltro anche Mark Zuckerberg aveva, se lo fa lui, diciamo che sì, se lo fa lui, sì, forse sì. Non è un brutto consiglio. Enrico, ancora esatto. Cose di attualità, che cosa ci puoi dire? Di cosa si è parlato in questi giorni? Ma, allora, di tecnologico? Si è parlato molto di questo fatto della CIA, una serie di notizie che in qualche modo sono relative al mondo della pirateria, ma di diverso tipo. Non tanto pirateria per spiare, per rubare documenti, mm-hmm, per carpire informazioni dai nostri computer o anche da computer molto più importanti, invece si è parlato molto di tutto quel capitolo, di tutto quel mondo della pirateria che ci fa vedere film, eventi dal vivo. E devo dire che questo degli eventi dal vivo, che possono essere partite di calcio, mm-hmm, o altri tipi di eventi, anche un concerto, sta diventando un problema, perché voi dovete sapere che tutte le società, i grandi broadcaster, le grandi televisioni, quindi Mediaset, Sky in Italia, Rai, eccetera, eccetera, hanno delle squadre sia interne ma soprattutto esterne di persone che scandagliano la rete alla ricerca di contenuti piratati e cercano di proteggere questi contenuti per i quali queste televisioni hanno pagato un sacco di diritti. Sono d'accordo, anche perché io gli abbonamenti li pago e quindi esatto. I furbi mi stanno un po' antipatici. Però è una gara veramente molto complessa, anche molto costosa. Queste società spendono milioni di euro ogni anno, mm-hmm, per pagare queste squadre. Ci sono anche, mi hanno raccontato recentemente, ci sono anche degli hacker anonimi con i quali metodo, diciamo, di contatto, ma non si sa precisamente chi sono, che proprio sulla base di alcune taglie, così, mm-hmm, come succedeva con la taglia del Far West, agiscono su target precisi, cioè l'azienda dice: io voglio bloccare il flusso di quella partita particolare, e questi hacker, che sono molto bravi, se riescono a bloccare questo commercio illegale, ricevono una ricompensa. Già sento rumore di porte di saloon, sai, quelle che sbattevano. Sì, sì, sì, sì. Ecco, no, dicevo, sta diventando veramente preoccupante, perché al di là di tutti i flussi che ci sono su internet, alcuni di, devo dire, anche di buona qualità, alcuni di qualità indecente, però Facebook Live, che permette a un singolo di fare una diretta dal vivo e ovviamente con una qualità non televisiva, però sta diventando un problema, perché ci sono stati casi di partite di calcio, ma anche di altri eventi, in cui uno con il proprio smartphone collegato alla rete internet trasmette proprio in diretta, si chiama Facebook Live, non per niente, trasmette in diretta questo evento. Mi ricordo, e immaginiamo, che all'inizio si temeva molto per Periscope, che però ha una... Sì, che però è vero, Periscope non ha avuto grande successo, invece Facebook Live, essendo integrato nella piattaforma di Facebook, e ricordiamo che Facebook ha in Italia quasi 30 milioni di utenti, è effettivamente un fenomeno interessante da un certo punto di vista, preoccupante da un altro punto di vista. Immaginiamo quindi, se uno va ad un concerto e ha 1000 amici, quindi 1000 utenti che sono connessi al suo account, se uno trasmette, sta trasmettendo a 1000 persone. Se moltiplichiamo questo per tanti, questo diventa un problema sia per chi produce i contenuti, ma anche per chi li trasmette a pagarti i diritti, come può essere una televisione, una grande televisione. Questo è effettivamente un problema. Diciamo che non si può fare. E io quindi sconsiglio di farlo, ma in questo momento c'è una, forse anche addirittura un vuoto normativo, perché è una cosa veramente nuova, ma non escludo che se poi uno esagera ad un certo punto si veda arrivare qualche, non dico la Guardia di Finanza a casa, però qualche provvedimento possa essere preso. Enrico, facciamo una breve pausa, traffico, poi ho ancora un paio di cose veloci da chiederti tra pochi. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Il sabato del villaggio. Enrico, il traffico dell'area 51 non ce l'hanno detto, quindi non so com'è la situazione, dove sei tu, non lo sappiamo. Non c'è traffico. Non c'è traffico, è tutto tranquillo. No, no. Qualche aereo che va di qua e di là. Allora. E qualche marziano. Allora. A proposito di marziani, c'è, sapete che ci sono siti, blog che parlano di marziani? Una cosa che si sta dicendo da qualche mese già, molti cominciano a domandarsi, ma come mai in un'epoca in cui tutti hanno lo smartphone e quindi tutti hanno una fotocamera, una videocamera che ha una qualità, non ci sono più gli avvistamenti di UFO? Cioè, gli avvistamenti di UFO c'erano quando c'erano poche videocamere, magari c'era ancora il rullino fotografico. È vero. Perché? No. Forse che non ci siano i marziani. Forse perché non è vero, cioè, ma chi lo sa. Forse no. No, forse perché sono timidi o hanno altro da fare. Può essere. Non stare mica a perdere tempo a farsi vedere dai terrestri. Sì. Enrico, no, volevo solo ringraziare Anna, ci ha mandato una vignetta molto carina. È una vergogna, gli americani non devono permettersi di spiare le nostre vite. Ora lo posto su Facebook, faccio un hashtag su Twitter, attenzione. Lo metto su Google Più e LinkedIn. Questa è bella. Però attenzione, tutti spiano tutti, quindi i cinesi, guardate che... No, ma era... Questo è un problema. Allora, dovete sapere che è da ieri che non riesco a fare battuta a Enrico Pagliarini, perché... ieri abbiamo... No, è vero, sono giorni un po' particolari. E mi prende sempre sul serio, dai, era una battuta. Vabbè, dai. Allora, Enrico, no, dai, io volevo sapere ancora, abbiamo solo un minuto, c'è ancora qualcosa che ci vuoi segnalare su questo argomento? Sì, c'è un altro fenomeno che invece è molto più complesso da intercettare a proposito di illegalità, a proposito di streaming illegale. Ci sono dei circuiti privati che non sono raggiungibili da internet se uno non sa alcuni numeri, cioè invece di scrivere www.paperino.com uno deve scrivere un numero, quindi 192.188 eccetera eccetera eccetera. Allora, se tu non sai il numero preciso non riesci a raggiungere quel contenuto. Ci sono dei pirati, dei ladri che rubano i flussi di televisioni a pagamento, li mettono su internet e spacciano questi canali. E in questo caso è molto più, complicato, anche se la Guardia di Finanza recentemente ha intercettato un giro di questo genere e ha bloccato, però il fenomeno è in espansione, purtroppo difficile da bloccare. Grazie Enrico per averci aggiornato su tutto, ricordo il podcast di 2024, noi ci sentiamo al prossimo sabato del villaggio, ciao Enrico. Ciao. Resta in collegamento con noi, ascolta, perché adesso diamo tutti i consigli per chi vuole andare al cinema. Il suo arrivo non può essere una coincidenza. È una bimba deliziosa, ma non puoi tenerla. Lei è nostra. Non facciamo niente di sbagliato. Come ti chiami? Lucy. Lucy, sono felice di conoscerti. Ciao. Ciao. Mia sorella ha vissuto una terribile tragedia. Ha perso in mare il marito e la figlia. Ora avrebbe l'età della vostra bambina. Dobbiamo dirlo a tutti. È sua madre. Sono io sua madre. Credo che mia figlia sia ancora viva. Andrà tutto bene, io ti proteggerò, lo prometto. Hai visto che cosa le abbiamo fatto? È troppo tardi. È il il momento di andare a sentire quali sono i film in sala questo fine settimana. Abbiamo già sentito un brevissimo estratto di una delle nuove uscite, Luce, Oceani, attori di grande spessore e soprattutto con grande attenzione mediatica. È piaciuta questa Luce sugli oceani a Franco D'Assisi? Glielo chiediamo subito in studio qui con noi. Ciao Franco. Ciao, ciao Marta. Sì, mi è piaciuto e devo dire, so di essere abbastanza controtendenza in questo, però fa niente, nel senso che questo film trovo che sia un bellissimo melò, proprio di genere melò, cioè che vuole essere quella cosa ed è perfettamente quella cosa. Infatti c'è una grande differenza nelle valutazioni del pubblico che lo sta amando e di una critica che invece lo ha un po', non dico stroncato, anzi anche stroncato in certi momenti. Un po' sì. Ricordiamo Michael Fassbender e Alicia Vikander, intanto i due protagonisti, in una storia molto molto drammatica, quella di una coppia che fa di tutto per avere un figlio, non ci riesce, quando ci riesce il bambino muore prematuro. I due, ed è un elemento forte quello della natura in questo film, vivono su un isolotto lontano ore e ore da tutto, in mezzo all'oceano, dove lui fa sostanzialmente il guardiano del faro. Chiaramente pian pianino questo problema diventa un'ossessione e io ovviamente non voglio spoilerare, insomma ci sarà una svolta, che è una svolta gialla, diciamo così, thriller quasi, dentro questa storia. Mi è piaciuta molto la recitazione dei due protagonisti, bravissimi secondo me. Mi è piaciuto molto appunto la voglia di interpretare un genere. Il melò non è per forza una venatura, non è per forza una deriva che magari un film prende, a volte è una scelta. Ci sono stati grandissimi autori di melò nel passato e trovo che questo film abbia una sceneggiatura a orologeria. Tutte le volte che succede qualcosa che magari ti aspetti, un secondo dopo ne succede una che non ti aspetti. E secondo me questa cosa porta lo spettatore con grande emozione fino alla fine del film. Un film completamente diverso, però attesissimo, tanto che mio nipote è andato a vederlo la stessa sera in cui è uscito con i suoi compagni di classe. Mio nipote ha 16 anni, forse qualcosa questo significa. Bleed. Assolutamente, guarda, beh, intanto significa che a mio nipote piace il pugilato. Perché, sì, sì, piacciono queste cose da maschi. È uno sport, secondo me, straordinario e che, come dire, la nostra epoca un po' politically corretta, un po' messo all'angolo, tanto per usare proprio un termine da ring. Bleed è un film che racconta la storia vera di un pugile ancora vivo, un pugile del nostro recente passato, combatteva negli anni 80, Vinny Pazienza, che fu vittima di un incidente stradale gravissimo dove rischiava di rimanere paralizzato e i medici gli dicevano: se tutto va bene con le cure che ti faremo forse tornerai a camminare. Ebbene, lui è tornato a combattere su un ring e questo grazie alla sua forza di volontà straordinaria. Si allenava con un tutore in metallo con le viti conficcate nel suo cranio, per darvi l'idea, e non voglio esagerare in gran guignol, ma giusto per dire che cosa ha dovuto sopportare quest'uomo, allenarsi in quelle condizioni di nascosto da una famiglia, tra l'altro, che non voleva più che toccasse un ring, ovviamente, da quel momento in poi. Ma grazie a un allenatore straordinario, che nel film è Aaron Eckhart, è riuscito a venire fuori da questa cosa, a tornare sul ring. Il protagonista è Miles Teller, protagonista di Whiplash, di Damien Chazelle, regista di La La Land. Quindi ricomponiamo un po' il cerchio di questa cosa. Però è un film sul pugilato, che parla anche molto di pugilato, tra l'altro, ma che parla soprattutto della voglia di resistere, di rinascere quasi, di un uomo, e in questo il pugilato è metafora straordinaria nel cinema. Allora concludiamo almeno con una segnalazione italiana, lo facciamo sempre. Grande uscita italiana della settimana? Ma guarda, direi che c'è un'attrice italiana della settimana, decisamente, che è Isabella Aragonese. Tra l'altro lo dico perché sarà ospite fra poco qui in studio da noi alla Rosa Purpura, la intervisteremo, perché ha due film in uscita addirittura. Uno è Il padre d'Italia, un film, diciamo, drammatico come intensità, ma insomma un film di recitazione drammatica con Luca Marinelli e appunto Isabella Aragonese, e di quello parleremo più diffusamente durante l'intervista. Però c'è anche un altro film che arriva, che è una commedia molto divertente, si intitola La questione di Karma. Uh-huh. Una commedia che ha come protagonisti principali Fabio De Luigi ed Elio Germano, nei panni di un padre e di un figlio. Sembrerà strano, ma insomma Fabio De Luigi crede nella reincarnazione e crede che suo padre, che si è suicidato nella prima scena del film, quindi non diciamo niente di particolare, si sia reincarnato in Elio Germano, e quindi c'è questa situazione un po' particolare. Elio Germano invece è un cialtrone che però cerca di utilizzare questa cosa, perché Fabio De Luigi è figlio di una famiglia famiglia molto ricca per, come dire, per sparcare il lunario e sistemare i suoi problemi. Isabella Aragonese è la sorellastra di Fabio De Luigi ed è bravissima anche in questo ruolo, che è un po' più laterale, così come lo sono quelli di Stefania Sandrelli ed Ero Spagni, straordinari nei panni dei genitori. Ma devo dire, questo è il film davvero che ci regala un Elio Germano straordinario, sfumature anche nella stessa inquadratura, capaci di cambiare proprio il clima del film. È un fuoriclasse, lo sappiamo, qui però lo fa anche in chiave comico-commedia, e quindi devo dire davvero un film che io sinceramente consiglio. Allora Franco, aspettiamo te e Isabella Aragonese dopo il giornale radio delle 18 alla Rosa Purpura e poi ancora il prossimo Sabato del Villaggio. Ciao Franco. Ci sentiamo fra poco, ciao. Sono Giorgia Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica di Giorgia Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19.15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno e Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Il sabato del villaggio. E rieccoci insieme con la seconda ora del nostro Sabato del Villaggio. Staremo insieme fino alle 18, come sempre dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube. Questa settimana, lo sapete, ve l'ho già spiegato, non ci sarà Daniele Bellasio per lo sciopero a oltranza dei colleghi del quotidiano Il Sole 24 Ore. Noi invece abbiamo scelto per lo sciopero delle firme, avete appena sentito il nostro GR 24. Ci sono sempre i nostri numeri per tenerci in contatto per tutto il Sabato del Villaggio, sono 349-238-6666, SMS e WhatsApp. Ci sono anche i miei account di Instagram e di Twitter, chiocciola Marta Cagnola. Ma quali saranno i temi della seconda ora del Sabato del Villaggio? I libri del momento con Alessandra Tedesco, i consumi, questa volta parliamo di case, dei suggerimenti molto utili per trovare case dove costa meno e dove l'aria è più pulita. Insomma, ne parleremo con la nostra Cristina Lazzati. Ma abbiamo parlato di televisori con Enrico Pagliarini, abbiamo parlato di tecnologia, è da un po' che non facciamo il punto sulla TV generalista. Scusate, mi viene da tossire, e questo è il bello della diretta, il punto sulla TV generalista, free o pay. Insomma, dopo aver parlato di televisori, parliamo di televisione e io riprendo fiato. Come andiamo, Valerio? Bene, bene. Ho messo le patate su per l'entrée, il faro per l'antipasto e adesso sto mettendo... Le patate per l'entrée cosa vuol dire? Farò una spuma di plankton a base di patata. Una spuma? Sifono il plankton. Non è semplice, no? E di primo? Faccio un raviolo con dentro un mazzinato di spalla di maiale, bok choy e... Pak choy e... Cavolo cinese. Cavolo cinese. E dentro ho intenzione di metterci la salsa udon, che però gelificherò. Il vincitore della sesta edizione di MasterChef Italia è... Sarà in diretta il Sabato del Villaggio? Sì, perché mi stavo strozzando. Questo insert di MasterChef è stato quanto mai opportuno. Grazie a Cristian che mi ha portato l'acqua in studio. Allora, il vincitore di MasterChef, un ragazzino che poi ha concesso interviste dappertutto, che vuol dire che tutti erano ancora molto interessati a MasterChef e all'esito di MasterChef. Allora, parliamo un po' di questo stato dell'arte della TV in questo momento con un amico. Sono contentissima che siamo riusciti ad averlo al Sabato del Villaggio, perché so che per oggi, che oggi per lui è una giornata un po' delicata, ma l'abbiamo rapito, ce la facciamo ad averlo per qualche minuto con noi. Davide Maggio, ciao Davide! Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, sono Davis, mi stavo strozzando per l'emozione di averti. Esatto, io te lo stavo per dire, guarda, di quello che ne troviamo la scusa della tosse, no, è l'emozione, di sentirci ancora. Il blogger di TV con la B maiuscola che ormai ha fatto il giro, non è più neanche un blogger, è un autore, è tutto. Ecco. Lui, vabbè, insomma, è il numero Abbiamo uno. Abbiamo prodotto anche qualcosina. Sì, ormai Davide Maggio fa tutto. Vedere sempre le stesse cose, abbiamo detto, ma sai, abbiamo, perché ho anche un socio, e abbiamo detto realizziamo qualcosa noi o quantomeno proviamo, c'è chi che non si continui per questa strada. Io faccio molto il tifo, lo sai. Davide, grazie, io ho detto che appunto il vincitore di Masterchef è stato intervistato un po' dappertutto sui quotidiani, che vuol dire che c'è ancora molto interesse nei confronti di Masterchef. I tuoi lettori lo notano ancora molto Masterchef, lo tengono molto d'occhio ancora? Guarda, sì, devo dire la verità, sì. Io anzi ti dirò di più. Qualche tempo fa, parlando un po' con dei dirigenti di Sky, come dire, gruppo nei confronti del quale io ero, come dire, prendevo quella realtà ancora un po' con le pinze, dissi loro: quando i vostri programmi incominceranno a superare il milione di telespettatori, allora ne riparliamo. E devo dire che questo dato alla fine è arrivato, segno che ormai Sky, per quanto ancora si usa dell'Italia e quindi comunque di nicchia, no? È uscita un po' da quella nicchia, e con programmi come Masterchef o X Factor, per esempio, è diventata un po', diciamo, prendila con le pinze e con le virgolette, generalista, nel senso che hanno un respiro talmente ampio questi programmi, e sono fatti obiettivamente bene, devo dire la verità, cioè Masterchef ad esempio ha un montaggio strepitoso, una bellissima fotografia, che meritano secondo me poi il successo che hanno, e l'interesse, questa è una cosa forse singolare, è crescente anche quando mediaticamente il programma ha meno eco, perché un'edizione come quella di prendiamo qualche anno fa, Racida, certo, no? Certo, aveva un'eco mediatica. O Spiros, insomma, c'erano alcuni personaggi culinari di cui si parla, erano diventati, brava, dei tormentoni. Esattamente. Quindi invece, senza il fenomeno da baraccone magari, o senza il fenomeno televisivo, Masterchef continua ad avere degli ottimi risultati, cioè una finale come quella di giovedì, che ha raggiunto il 7%, e beh, diciamo che è un dato che non si può trascurare. E se li merita anche, perché televisivamente secondo me è realizzato molto bene, è un bel programma, è un bel mix di tanti sapori, per rimanere in ambito culinario. Quindi devo dire, ci sta, e ci sta anche l'interesse che c'è da parte del pubblico, perché alla fine è un programma pulito, questa è la verità, è un programma che parla di cucina, e lo fa per bene, è un bel talent di cucina fatto per bene. Allora, qualche giorno fa su Twitter Andrea Scrosati, che sappiamo essere responsabile dei contenuti non sportivi di Sky, come dice lui stesso appunto su come Twitter, sono professional. Aveva twittato ironico, lungimiranti commenti sui nano share della Pay. Effettivamente non si parla più di nano share. È vero. Ce l'aveva in canna da un po', secondo me, Andrea, sto tweet. Comunque, voglio... Sì. Andrea è molto bravo. Andrea è una delle persone che, secondo me, al momento è tra le più valide. Parliamo sempre di ambito televisivo, perché obiettivamente hanno una capacità che hanno in pochi, che è quella di credere in un progetto, di lavorarci su e di non farsi condizionare dai risultati che il programma riporta nel breve termine. Quindi, ma fanno dei ragionamenti a lungo termine, vedi quindi X Factor, vedi Italia's Got Talent. Italia's Got Talent ieri ha fatto il 4.5 sull'8, certo, certo. E sono dei dati importanti, cioè ha battuto Crozza, che è sceso al 4%, quindi sinceramente devo dire bravi. Qualche anno fa sarei stato per esempio più critico, dopo i risultati come questi puoi dire bravi, sicuramente sì, un po' presuntuosi ma bravi. Ti voglio chiedere qualcosa di Crozza, abbi solo un attimo di pazienza perché abbiamo il traffico e poi ti scateno su Crozza, tra un attimo. Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Vi presento il sabato del villaggio. Abbiamo sforato, no? Perché subito dopo di noi c'è Cucine da Incubo. Se lo facciamo partire in ritardo, poi Cannavacciuolo se la prende con me. Grozza, allora, deve partire? Deve partire prima? Deve finire prima? Le scenette? Deve farle più corte? Bel Pietro, lo devi accorciare. Napal, non si capiva un cazzo. Grozza, oh! Fammi vedere come hai fatto le prove. Allora, per chi invece non riesce a dormire e tira tardi, si sappia che dopo Cannavacciuolo c'è un'altra replica di questo programma. Poi c'è ancora Cannavacciuolo, poi di nuovo Crozza, poi Cannavacciuolo, poi Crozza. C'è all'infinito lo spazio, 2001 di sera lo spazio. E quindi Crozza, che nella prima puntata di Fratelli di Crozza aveva dedicato una canzone al 9, prendendosi in giro dicendo che non sapeva neanche che ci fosse, insomma non scanalava fino al 9, ancora questa volta ci ha messo un po' di ironia nei confronti, di buona ironia nei confronti che la TV che lui ospita e che... la TV che lo ospita e che ha cominciato a fare anche lì degli ascolti interessanti, si sta imparando ad andare un po' più avanti con il telecomando. Davide Maggio, Davide, cosa ne pensi? Penso che Crozza, che ha delle punte di genialità interessantissime ed è molto bravo, non sia sempre bravo. Non sei stato tanto contento di questo Fratelli di Crozza? Mi ha annoiato tantissimo. No, addirittura? L'inizio è stato di una pesantezza, di un'autoreferenzialità, di una... non lo so, era quasi come se volesse giustificare il suo passaggio al 9 cercando di far ridere, ma in realtà non ha fatto ridere nessuno. Anche il parlare, per esempio, di Marinella Soldi, quindi del numero uno di Discovery Italia, ad un pubblico che non solo non la conosce con ogni probabilità, ma che probabilmente non è neanche interessato a chi è Marinella Soldi o chi è appunto chi è il numero uno di Discovery, l'ho trovato una cosa talmente, come dire, è come se la stessero cantando e se la stessero suonando da soli. Io ieri sera non l'ho visto, l'ho visto solo la prima sera, quindi non... Sì, ieri sera neanche io. Poi ti dico cosa ho visto ieri sera, te lo dico dopo. Sì, quindi tu non mi tu no, non mi promuovi, non mi promuovi no, Crozza per no, il momento. Tant'è vero che l'interesse, come era ovvio che insomma che fosse, che c'è stato con la prima puntata, che ha totalizzato 5.4 di share, ha perso il 25% di ascolti nella puntata di ieri. Ed è un dato secondo me importante, cioè è una perdita importante, anche perché, senza scendere troppo in tecnicismi, se la prima puntata la mandi in simulcast su tutte le reti del gruppo... Sì, tipo Messaggio del Presidente della Repubblica. Esatto, e la seconda, che non ha il simulcast, sull'unica rete che la trasmette, quindi il 9, doveva guadagnare qualcosina e invece ha perso il 25%. Secondo me è anche un po', come dire, è importante come dato. Certo, c'era anche una partita importante, anche quella, però, come dire, è un, insomma, bisognerebbe fare qualche considerazione, e qualche considerazione dovrebbe farla anche Discovery quando fa o crede di fare questi colpacci, perché se tu devi lanciare una rete generalista non puoi pensare di portare un prodotto che è già di per sé di nicchia, che andava in onda su una rete di nicchia come la 7, con tra l'altro delle variazioni che hanno, secondo me, indebolito il programma, perché le imitazioni, le nuove imitazioni fatte da Crozza non erano sicuramente forti come quelle che ci sono state nell'ultima edizione della 7. Quindi... A me è piaciuto tanto Mannoioni, però. Mannoioni è piaciuto ecco, tanto. Guarda, forse Mannoioni non era male, ma Cannavacciuolo, per esempio, l'ho trovato pessimo. E tutta quella lì, cos'era? Giunte da Incubo, mi pare, no? Sulla giunta Raggi, l'ho trovato altrettanto noioso. Cioè, proprio, ecco, non mi ha fatto venire voglia di tornare ieri a dare un'occhiata a Fratelli di Crozza. Poi, vabbè, se dovessimo aprire una parentesi su tutto ciò che c'è dietro determinati artisti, non la finiremmo più di fare. Oh, prima o poi lo faremo, ecco. Però, caro Davide, volentieri, prima o poi lo faremo. Però adesso voglio sfruculiarti su un'altra cosina. Eccola qua. È una cosa meravigliosa, è una relazione bella, trasparente. Beh, una cosa rara è incontrare l'amore a 50 anni. Cioè, non è che succede, esatto, tutti i giorni, sta. No? Vabbè, mia, te lo ricordi, no? Quando sei arrivata, io manco ti conoscevo, non sapevo manco chi fosse. Tutto io ho fatto. Vedi? Ce l'ho visto bene, però. Imma Battaglia, Eva Grimaldi, bella coppia e tutto. Cosa pensi di quest'isola, con quest'isola dei famosi, diciamolo bene, con questa deriva un po' gossip, un po'... Certo non era improvvisata, se nel frattempo è uscito un settimanale con una copertina. Allora, partiamo da una cosa. Partiamo innanzitutto da quella che hanno definito l'isola antropologica, questa buffonata dell'isola antropologica, cioè si voleva presentare quest'anno l'isola come espressione, come volevano far rivivere, ecco, ai concorrenti l'evoluzione antropologica, no, dell'uomo. Mm-hmm. Ora, l'idea magari sulla carta era anche carina, ma perché farla l'isola dei famosi? L'isola è un reality forte, quindi già di per sé, e in un reality, come è normale che sia, ad essere importante, determinante, è il cast, punto e basta, che invece è la cosa che trascurano probabilmente, soprattutto con il passaggio a Mediaset, di più, quindi il problema sta lì. Poi, come hai detto tu, questa deriva gossipara, veramente una roba di una... proprio di una pochezza, guarda, perché... Oggi Davide Maggio la tocca pianissimo. No, ma scusami, allora, innanzitutto non me ne vorrà Gabriele Parpiglia, che è un giornalista che conosciamo, che però non capisco perché debba essere lì autore del programma, perché poi è chiaro che non ci si può lamentare, perché il suo lavoro lo fa anche molto bene, però è chiaro che se metti come autore lui una chiave un po' gossipara, il programma la prende sicuramente. Ok, e questo è un primo punto. Ma la cosa che poi non c'entra niente invece con l'autorato, bisognerebbe approfondire in realtà, che è questo coming out di Imma Battaglia ed Eva Grimaldi, che era, sino all'uscita della copertina di Chi, una cosa anche carina, no? Perché magari poteva essere un modo per affrontare anche determinate tematiche. Certo. Tu che fai? Imperfetta, sì, con una, strano, è proprio un tempismo incredibile. Un tempismo pazzesco in daytime. Va via la battaglia dopo che si sono giurati amore eterno, e il giorno dopo una copertina di Chi, finalmente libera di amarci. Posso essere volgare? Un po', cioè, un pochino. Beh, andassero a cagare. Oh, perché... sei stato volgarissimo. Vabbè, che qui a Radio 24 le diciamo le parolacce. C'è qualcuno che ne dice tante. Ma perché anche, c'è Valeria che di solito fa la regia alla zanzara, che in questo momento sta facendo. Ha fatto una faccia per dire sì, le diciamo. Ma scusate, spieghiamo anche agli ascoltatori perché devono andare, insomma, un po' in giro per l'isola. Perché questa copertina è ovviamente stata preparata certo, per prima che la Grimaldi partisse, per cui il percorso era tutto studiato, e sinceramente io non vedo perché si debba fare una cosa del genere. Che motivo? Tra l'altro, ho letto su Dagospia che pare che dicano che lei abbia già dichiarato che sa il giorno in cui uscirà, quindi insomma in realtà è venuta fuori questa cosa nell'ultima puntata, in prima serata, perché pare che sia stato chiesto ad Eva quando sarebbe, insomma, uscita dal programma, e lei ha risposto in effetti un 28, che corrisponde ad un martedì, quindi ad un giorno in cui l'isola è in onda. Certo, di 28 ce n'è uno, tutti gli altri fanno 31, ma se martedì è proprio 28, chissà, vediamo. Qualche dubbio ce l'ho, perché alla fine devono tutti andare via il 28, perché è la puntata prima della finale, quindi devono far rientro in Italia. Lei abbia risposto il 28, non lo so. C'è qualcosa. No. Allora, ti chiedo, intanto arrivano messaggi violenti contro Crozza e violenti pro Crozza, quindi Crozza divide bene, pro e contro. Violenti contro di me, no? No, ancora no, ancora. Peccato, no. Ma adesso... perché vorrei fare un po' il protagonista. Lo so, ma quanto ti conosco, ma quanto ti conosco. Allora dai, per concludere, ti rubo ancora un minuto perché voglio parlare invece di quello che ho visto ieri sera. Ecco. Vediamo. Qua. Ma guarda, mi facciano tutti a me, non va bene. No, vorrei dirvi una cosa. Ma smettete, io cosa devo fare? Dai, potete darvi un bacio, no? ma anch'io non so te se si riunisce ancora. Anch'io amo tanto l'Italia. Anch'io amo te, amo l'Italia. Come? Amo te. Allora. Io starei qui quanto volete. A casa mia. Guarda, vi va. A casa mia. Siete fortunati perché ora devo. Diciamo dimmi. A casa mia a quest'ora c'è mio figlio piccoletto che sta guardando, la piccoletta che sta guardando questa trasmissione, c'è anche Loredana che sta guardando questa trasmissione. Ecco. Fatemi finire, grazie. Fatemi finire, grazie. Sia i bambini che gli adulti, sia i bambini che gli adulti vanno sempre rispettati. Ho capito, allora il bacio, realtà, il bacio allora ce lo diamo dopo. Allora, questa scena, io ero davanti alla TV a guardare Standing Ovation con la Clerici, perché poi tra le coppie di concorrenti ce n'è una che conosco bene, conosco da molti anni. Oh. Sì, io tifo molto per Omar e Aurora perché li conosco da tanti anni e sono due persone veramente, cioè i genitori, Aurora non era piccola quando l'ho conosciuta, ma insomma i genitori sono veramente carini. Allora li guardavo per vedere se arrivavano in finale, ho visto questa scena, insomma il pubblico che tifa per il bacio tra Albano e Romina. Albano in un momento di grandissimo imbarazzo che dice, beh non è che posso baciare Romina anche perché a casa c'ho mia moglie, e il pubblico che fischia perché lui ti è sfuggito un passaggio, cioè, secondo me il più importante, cioè dimmi allora, giusta la tua sintesi, ma prima che Albano facesse riferimento alla moglie, sì, alla compagna e ai figli, sì, avuti dalla compagna, quindi da Loredana Lecito, sì, la Romina Power ha detto ad Albano amo te amo l'Italia. Sì, perché parlavano del film di Checco Zalone, ecco, quando lui dice Albano e Romina sono tornati insieme, che non era vero, ma e allora lei dice amo te. Tra l'altro, quando lui ha detto i bambini a casa, lei ha detto ciao, come per dire saluto i bambini, ma con un'aria proprio non era convintissima. Allora Albano, vabbè, aggiungiamo un altro passaggio, ciò che ha detto Loredana Bertè dopo. Sì, che bello, perché che bei momenti. Bertè, sì, cosa ha detto la Bertè dopo? Perché la Bertè subito dopo ha detto, ma figurati, se Albano può baciare Romina, sarebbe malissimo, una cosa del genere, sarebbe malissimo, viene, ecco, perché è pazzo di lei. No, e ti prego, ma no, ma ha detto questa cosa. No, perché poi io lì nel momento allora devi sapere che io poi in quei casi lì No. Quando mi imbarazzano molto queste scene in TV, io o giro, mi alzo, perché proprio mi viene proprio la fremdschämen, cioè l'imbarazzo di quelle robe lì altrui, ecco. Beh, sì, è stato mi imbarazza tantissimo. A te non capita che dici oddio, non lo posso vedere, mi imbarazza? No, capita no, così. No, io invece diverti. Non sono così, più mi diverto da voi. Beh, certo. Assolutamente. No, e ieri secondo me questo è stato un vero colpo di scena, perché cioè in pratica secondo la Bertè c'è ancora amore tra i due. Secondo me assolutamente lei ha voluto dire questo, e ti devo dire anche che questo essere così trattenuto da parte di Albano, che è una cosa, come dire, cioè lui l'ha cercata per tanto tempo dopo ciò che è accaduto, lo sappiamo, certo, tutti, no? Sinceramente il rifiuto all'epoca era da parte di Romina. A me sembra quasi una ripicca adesso, cioè come a dire, quando ti cercavo io non c'eri, bellissimo, e adesso che mi cerchi tu io ti devo baciare qui in diretta. No cara, perché io ho una compagna e dei figli a casa. Secondo me il messaggio è stato questo. Però secondo me, visto che Romina ormai è spesso e volentieri nuovamente a Cellino anche lei, secondo me, come dire, non qui è gatta cicogna. No, ma dai, ma vabbè, che momento di grande gossip con Davide Maggio. Che momento di grande gossip con Davide Maggio. Sono proprio una brutta persona, lo so. Sì. Davide, però va che meraviglia. Però il programma, nonostante questo colpo di scena, ha fatto il 14 ieri. Non è che proprio, non è stato un programma purtroppo amatissimo. Mi piace per la Clerici, sai? Sì, anche a me, perché poi secondo me non si capiva se bisognasse provare della tenerezza nei confronti dei bambini e dei genitori che cantavano insieme, perché poi a un certo punto i giudici erano cattivi, dicevano le cattiverie, e quindi non era un po' disorientante. Dobbiamo aprire quest'altra parentesi sul concorrente che si è scagliato poi contro la Bertè, si è scusato, Si è scusato quello che poi aveva... Beh, secondo me le scuse sono state peggio dell'offesa della settimana precedente, perché lui che esordisce, dopo averle detto la settimana precedente, si passa grata dalla natura ed esordisce con le sue scuse dicendo Loredana stasera sei ancora più bella, mi sapeva tanto di presa in giro. Un pochino, vabbè. Che bel momento d'Italia e Cucci con Davide Maggio, sempre sempre una buona parola per tutti, sono perché contenta. Perché a noi gli amici non bastano mai, è vero, ecco. È vero, Davide, qualche volta ci vieni a trovare in studio, dai, vienici a trovare quando in studio, ci facciamo una chiacchierata qui in studio. Grazie, io non so neanche a dirvi che davidemaggio.it è il blog, ormai chiamarlo blog migliore ormai, adesso lo possiamo dire perché siamo stati proprio eletti come miglior sito televisivo, cioè non ci sono proprio dubbi. Grazie Davide di essere stato con noi, un abbraccio enorme, grazie, alla prossima. Anche a voi, grazie mille. Noi ci troviamo tra pochissimo perché dobbiamo parlare ancora di un sacco di argomenti e infatti ad esempio dobbiamo parlare di libri, ma tra poco. Il sabato del villaggio. E lo abbiamo detto, adesso al sabato del villaggio è il momento di parlare di libri. Woman, I can hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness. Partiamo parlando di libri, vabbè, immagino che si parli di donne, vista la canzone. Questa settimana c'è stato l'8 marzo, abbiamo quindi scelto una canzone molto a tema femminile, ma immagino che parliamo di donne anche nei libri. Lo chiediamo subito ad Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra, qual è il primo libro allora femminile? Marta, oggi parliamo di un libro bellissimo, non so come dirlo, veramente lo so che tutti dicono ma tu parli sempre di libri bellissimi, sì, altrimenti non ve ne parlerei, quindi di questo, Marta, ti impongo la lettura. Ok, prendo nota, sai che poi faccio i compiti, quindi cosa devo leggere? Devi assolutamente leggere L'Arminuta, scritto da Donatella Di Pietrantonio, pubblicato da Einaudi. Visto dunque che si parlava di donne, ho scelto una scrittrice donna che ha scritto un romanzo su una donna. Un romanzo, cosa devo dirti, doloroso, potente, commovente. È la storia di una ragazzina che viene cresciuta fin da quando sostanzialmente è neonata da una coppia di zii, da uno zio e da una zia. Per ragioni che inizialmente nel romanzo non si capiscono, improvvisamente quando questa ragazzina ha 13 anni viene portata proprio con la forza dallo zio, che lei però ha sempre considerato un padre, nella famiglia d'origine, insomma nella famiglia biologica, di cui però lei non ha alcuna memoria. Quindi puoi immaginare che è un trauma enorme. La storia è ambientata nell'Abruzzo degli anni 70, quindi questa ragazzina passa da una famiglia, diciamo, benestante, che la coccolava, la faceva vivere in un ambiente ovattato e protetto, ad una famiglia, insomma, di campagna, che è quasi al limite della povertà. Ci sono tanti fratelli, c'è anche una sorella, qui si parla quasi esclusivamente dialetto, che lei, la bambina, la ragazzina, non conosce. Insomma, è logico che questa ragazzina sogni di poter tornare sempre dai genitori adottivi, gli unici che conosce veramente, e soprattutto si interroga sul perché l'abbiano restituita dopo tanti anni. Infatti L'Arminuta, in dialetto abruzzese, vuol dire la ritornata. È un romanzo, come ti dicevo, veramente molto intenso. Donatella Di Pietrantonio si conferma una grande scrittrice. Lei aveva scritto Mia madre è un fiume e Bella mia per un'altra casa editrice, per Elliot. E ora con questo L'Arminuta veramente, che ti devo dire, toglie il fiato. Alessandra, chi lo consigliamo? Allora, come sempre sai, io dico uomini e donne perché non mi piace fare differenza di genere, però come età consiglio dai 25 in su, perché certi aspetti di questo romanzo si capiscono solo dai 25-30 anni in su. Si affronta appunto il tema della maternità, del senso delle origini, proprio di quanto sia importante. Infatti c'è un brano che ti vorrei leggere. A un certo punto Donatella Di Pietrantonio scrive, è scritto in prima persona da questa ragazzina che poi diventa donna: nel tempo ho perso anche quell'idea confusa di normalità. e oggi davvero ignoro che luogo sia una madre. Mi manca come può mancare la salute, un riparo, una certezza. È un vuoto persistente che conosco ma non supero. La sola madre che non ho mai perduto è quella delle mie paure. Accidenti. Sicuramente è un libro molto intenso. Anche qui faccio i compiti. Mi hai fatto venire come sempre voglia di leggerlo, ma ancora consigli, Alessandra. Adesso passiamo a un altro genere, proprio completamente un altro genere, ad un noir. È il primo noir di Roberto Perrone. Qualcuno dirà, ma questo nome non mi è nuovo. Allora, Roberto Perrone è stato per tanti anni giornalista sportivo, ma aveva sempre una grandissima passione, quella di scrivere romanzi, spesso anche sentimentali, che avessero a che fare con l'amore. Stavolta invece si è dilettato in un noir vero e proprio. Si intitola La seconda vita di Annibale Canessa ed è pubblicato da Rizzoli. Allora, questo noir, diamo le coordinate GPS, Marta, per orientarci. È ambientato a Milano. Inizialmente sono gli anni 70, il protagonista Annibale Canessa è un carabiniere che, diciamo, è un simbolo nella lotta al terrorismo. Poi, diciamo, un giorno nel 1984 tutto cambia nella sua vita. Lui arresta, diciamo, un noto brigatista, ma l'atteggiamento dei suoi superiori, diciamo gli intrallazzi politici che intravede dietro alcune operazioni, lo delude profondamente, quindi lui lascia l'arma e si rifugia così in un paesino in Liguria, apparentemente, insomma, in un mondo ovattato. Però mentre vive, diciamo, in questa bolla, a un certo punto riceve una notizia: c'è stato un omicidio, un duplice omicidio a Milano a colpi di Kalashnikov. Chi sono le vittime? Beh, quel brigatista che lui aveva arrestato tanti anni prima e per il quale appunto aveva poi abbandonato l'arma, e suo fratello, cioè il fratello del protagonista di Annibale Canessa, con il quale lui non parlava da 30 anni. Quindi, insomma, a questo punto deve fare un'indagine, qui scatta il noir, a ritroso nel suo passato, che è il suo passato personale, ma anche passato, come dire, di una fetta della storia di Milano anni di piombo. Ecco, devo dire, io non sono un'appassionata di noir, però siccome c'è anche un po' di storia d'Italia, forse mi può piacere come libro. Sì, secondo me sì, perché ecco, lo consiglio naturalmente a chi ama i noir, ma anche un po' a chi, non so, vuole rispolverare magari perché li ha vissuti in qualche modo gli anni di piombo attraverso una storia di fiction, ma anche a chi fortunatamente non c'era in quel periodo e quindi ai più giovani, per capire che cos'era anche l'atmosfera di quel periodo. Prossimo consiglio, Alessandra. Questo libro te lo dedico, Marta. Ma chissà come mai, sono curiosa, dimmi tutto. Te lo dedico perché parla di televisione, dei retroscena della televisione. Tu ne sai parecchio, no? Ah, questo è già il mio libro, ho già pronto il segnalibro per questo. Allora, è proprio un libro che ti dedico, è un romanzo, è assolutamente un romanzo, non è un saggio, non c'è niente di vero, è tutto inventato o chissà, non lo sapremo mai perché purtroppo l'autore non è più con noi, insomma non è più vivente. L'autore è Richard Stern, scrittore americano, e ha scritto questo romanzo nel 1959, ma ora in Italia viene ripubblicato dalla casa editrice Yakabook nella collana Calabuig. Il romanzo si intitola Golk. Allora, è un romanzo, Marta, divertente, ironico, ma devo dire che raggiunge delle punte di cinismo mica male. Tra l'altro l'autore Richard Stern è, diciamo, stato paragonato a volte anche a Philip Roth, perché erano molto amici, ne è stato anche forse il maestro. Allora, di cosa parla questo romanzo Golk? Siamo nell'America negli anni 50 e un uomo, parliamo di personaggi inventati, un uomo venuto dal nulla inventa un programma televisivo rivoluzionario. Quale? La Candid Camera. Accidenti. Eh sì, e infatti qui tutti si chiedono, ah, chissà se è una storia vera, diciamo che è una storia di fantasia, ma non lo sapremo mai se si è ispirata appunto alla realtà. E nel raccontare appunto queste candid camera che venivano fatte all'epoca a metà degli anni 50, c'erano degli scherzi veramente cattivissimi a volte, e tutto è raccontato in maniera tragicomica, e possiamo dire che Stern ha anticipato già nel 59 situazioni tipiche del mondo della TV di oggi. Secondo me tu riesci a fiutare tanti retroscena che magari, insomma, noi possiamo solo intuire, ma magari tu li hai visti dal vivo. Allora, quando lo leggo, vabbè, quando ho finito gli altri due consigli, cioè il primo di questa settimana e quello della scorsa, che era Le nostre anime di notte, ho appena cominciato a leggerlo, quando lo leggo te lo dico. Abbiamo tempo ancora per un consiglio, Alessandra, cosa scegli? Un consiglio stavolta per bambini, un libro bello, già solo il titolo, guarda, oggi sono particolarmente entusiasta dei libri che ho scelto. Si intitola Storie della buonanotte per bambine ribelli. Abbiamo iniziato a parlare appunto della donna, c'è stato l'8 marzo, eccetera, eccetera. Si tratta di 100 vite di donne straordinarie. L'hanno scritto Elena Favilli e Francesca Cavallo, pubblicato da Mondadori, indicato, diciamo, per le bambine, ma secondo me anche per i bambini, non facciamo differenza di genere giammai, dagli 8 anni in su. Di che cosa si tratta? Allora, sono 100 storie, diciamo, 100 biografie di donne che hanno fatto la storia e che possono servire da modello per le bambine e i bambini di oggi, dalla ciclista Alfonsina Strada alla pittrice Artemisia Gentileschi, poi c'è per esempio la stilista Coco Chanel, ma anche la partigiana Claudia Ruggerini, da Michelle Obama a Rita Levi Montalcini, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti. Ogni piccola biografia inizia proprio come le vecchie favole C'era una volta, e mi piace, Marta, leggerti l'introduzione a questo libro, è una specie di dedica che dice: alle bambine ribelli di tutto il mondo, sognate più in grande, puntate più in alto, lottate con più energia e nel dubbio ricordate, avete ragione voi. Ah, questo mi piace tantissimo, perché anch'io, confesso, mi sento un po' bambina ribelle, ancora un po' bambina ribelle. Sì, sì, sicuramente questo è consigliato appunto per le bambine, ma secondo me appunto anche per i bambini, non facciamo differenze di genere. E poi devo dire che la storia che c'è dietro la pubblicazione di questo romanzo pubblicato, di questa raccolta di storie, di biografie pubblicato in Italia da Mondadori, è molto bella, perché l'hanno scritto due italiane che però vivono negli Stati Uniti, e per pubblicare questo libro hanno fatto un classico crowdfunding, no? Insomma, la raccolta di fondi sul web. Hanno raccolto nel giro di 28 giorni, quindi neanche un mese, $1.300.000, che poi insomma servono anche alla loro fondazione Timbuktu Labs, che diciamo fa diverse cose per i bambini. Accidenti, dai, ultimissimo consiglio al volo, abbiamo ancora un minuto. Allora, per chi viaggia in questo periodo e vuole ascoltarsi magari un audiolibro in macchina, direi che Le ore di Michael Cunningham, letto da Isabella Ferrari, audiolibro di Emmons. Insomma, Le ore lo conosciamo un po' tutti, insaltato il libro con il quale Cunningham, l'americano Cunningham, ha vinto il Pulitzer. Quindi si seguono parallelamente le storie di tre donne che in qualche modo hanno a che fare con Virginia Woolf, quindi si può ascoltare Le ore tranquillamente in macchina e veramente ce lo si può godere. E per chi invece in viaggio avesse voglia di podcast? Il cacciatore di libri, come sempre, a disposizione su radio24.it, anche sulla nostra app. Potete scaricarla, andare nella sezione podcast, mettere l'alert sul cacciatore di libri e appena viene prodotto in automatico il nostro podcast sarete avvertiti. Grazie Alessandra, al prossimo sabato, ciao! Bye! Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Il sabato del villaggio. Grazie a Marina per un messaggio molto carino al 349-238-6666, che dice: che bello sentirvi consigliare libri, Alessandra, quanta convinzione e capacità di coinvolgere. Marina, sono molto d'accordo con te e infatti mi fa davvero venire voglia, ma davvero, non sto scherzando, di leggere tutti i libri che consiglia. Non ce la farò mai, ovviamente. Adesso però è il momento di parlare di consumi. L'impressione che stiamo per parlare di casa, sì, perché insomma anche l'acquisto della casa fa parte dei consumi, delle tendenze. Ci sono delle tendenze in questo senso? Lo chiediamo alla nostra Cristina Lazzati. Ciao Cristina! Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, qui, certo, tendenze a fare, Marta, anche perché sappiamo tutti, come dire, che l'aria che respiriamo non sempre pulitissima, certe volte lo sentiamo proprio dal nostro olfatto, e sicuramente vorremmo vivere in città dove l'aria è pulita, dove c'è un ecoambiente accogliente, dove i nostri bambini possono crescere senza avere sempre tosse e raffreddore. Allora, cosa io mi sono trovata con una classifica di Legambiente che ha messo in ordine le città italiane proprio dalla più, come dire, dalla migliore da un punto di vista di ambiente, la peggiore ma non la citiamo, e l'hanno incrociata, immobiliare.it l'ha incrociata con i prezzi delle case, perché obiettivamente, insomma, va bene l'aria pulita, però bisogna anche avere il portafogli sempre a portata di mano. Quindi per tutti coloro che vogliono scegliere una città, un po' a prescindere dal dove sta la mamma, dove sta il lavoro, eccetera, si vogliono trasferire, ecco, è venuta fuori una classifica molto interessante. Al primo posto troviamo Gorizia, città ideale per comprare casa in un contesto urbano pulito. Quindi chi volesse, ad esempio, ricominciare a dire riparto da un posto in cui costruire qualcosa di nuovo, Gorizia è un'ottima scelta. Gorizia sì, perché tra l'altro il prezzo al metro quadro è di 975 euro, che per noi che viviamo a Milano effettivamente è un prezzo che si vede molto molto molto raramente. Io poi ci sono stata, da quelle parti si sta molto molto molto bene. Tanto è vero che nella classifica di Legambiente sta al terzo posto, quindi cioè proprio negli sistemi ecosistemi urbani migliori. Tra l'altro, proprio una delle tendenze che ci saranno, ma proprio attraverseranno un po' il mondo, non solo l'Italia, sarà proprio quello che comunque molti comuni si daranno da fare per rendere comunque la città non solo più pulita da un punto di vista di aria, ma anche più ecosostenibile, spingendo anche i propri cittadini a fare più movimento, andare a usare, a utilizzare più le biciclette. Per fare questo, chiaramente, noi possiamo andare in bicicletta finché vogliamo, ma abbiamo bisogno di piste ciclabili e soprattutto di aria da respirare, mentre i nostri polmoni sono al lavoro, un'aria più pulita. Quindi, e a proposito di lavoro, se a questo associamo magari il telelavoro e lo smart working, che ormai sono una realtà per molti, il connubio è perfetto. Perfetto, esattamente, esattamente. Soprattutto nei giorni come l'8 marzo, in cui la città, almeno a Milano, era bloccata. Sì, io ero a Roma, era un delirio. Ecco, allora lì il telelavoro può aiutare tutti a creare un po' meno inquinamento e anche più produttività. Ma continuiamo con la nostra classifica. Sì. La seconda posizione ci spostiamo in Sardegna e precisamente a Oristano, che ha un'ottima performance come valutazione ambientale e il costo delle case sono 1.220 euro al metro quadro, quindi insomma leggermente un po' sopra Gorizia, ma sicuramente molto interessante, tenuto conto che Oristano poi è veramente, siamo in Sardegna, mare e quant'altro. Eh sì, sì. Per gli appassionati della Sardegna, insomma, potrebbe essere un'ottima scelta, poi appunto mare e spiagge a due passi, perfetto. Diciamocelo, chi non è appassionato della Sardegna? No, io la amo profondamente. Io nord, sud, est, ovest, la Sardegna mi piace dappertutto. Poi ho un sacco di amici sardi, quindi in Sardegna si sta davvero bene. Oristano al secondo posto, poi? Poi terza è Macerata, anche se ahimè in questi giorni è ancora un po' scossa, che però effettivamente è al primo posto come proprio ecosostenibilità nella classifica di Legambiente. Il valore degli immobili si aggira sui 1.245, quindi in questo caso veramente 20 euro in più rispetto a Oristano. E poi infine continuiamo con Belluno e Pordenone, che hanno effettivamente delle buone posizioni sia in un modo che nell'altro, e l'unica invece che sta al sud è Foggia. Ah, infatti Foggia. Ti volevo chiedere, c'è qualche posto anche al sud? Foggia, bene? Foggia, sì. Poi torniamo nelle Marche con Ascoli Piceno e diciamo abbiamo Parma, Cuneo e Ravenna che chiudono la classifica. Parma è quinta nella classifica di Legambiente, per cui tenuto conto che sta nella Food Valley, complimenti ai cittadini parmensi, che poi non mi ricordo mai, sono parmensi o parmigiani? Adesso lo chiediamo ai nostri emiliani qui in redazione. Vediamo ce lo facciamo dire. Qualcuno ti te lo segnala. Ce lo facciamo dire anche dagli emiliani in redazione. Adesso recupero Enrico Pagliarini, che è modenese, ma ce lo saprà dire. Magari mente. Dici per qualche rivalità locale. Bella questa classifica, che ci dice molto di noi. Poi appunto la tendenza è quella di vivere sempre con ritmi più larghi e poi magari riuscire a vivere in maniera più verde e davvero lavorare anche a distanza. Ormai sono tanti i lavori che ci permettono anche di non stare nelle grandi città. D'altronde, se siamo sempre più mobili e se abbiamo sempre in mano un cellulare o un computer, in linea di massima questo farà sì che potremo collaborare con le nostre aziende avendo uno stile di vita più vicino a quelli che sono i bioritmi dell'essere umano e non quello della macchina. Sono davvero d'accordo. Intanto mi dicono parmigiani di città, parmensi di provincia. Adesso controllo. È così. Parmigiani Perfetto. E parmensi. Grazie Cristina per essere stata con noi anche questo sabato. Ci ritroviamo anche sabato prossimo, anche con Maria Luisa Pezzali che tornerà insieme a noi. Grazie Cristina, al prossimo sabato. Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti. Occidentali scarma, 50 milioni di views, ancora non ci credo. Ciao a tutti, abbiamo superato la soglia di 50 milioni di visualizzazioni per il video di Occidentali scarma. Grazie a tutti, noi siamo qua in studio, salutate il team. Stiamo facendo l'album, stiamo lavorando per voi. Abbiate pazienza. Ciao. Grazie. Beh, ovviamente questo era Francesco Gabbani che su Facebook ha annunciato un record pazzesco, 50 milioni di views per Occidentali Scarma. Ne parleremo tra pochissimo a RadioTube. Adesso il giornale radio, poi torneremo ancora insieme tra poco.